get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Novembre 1994. La vita è così strana che non ti permette di riconoscere i giorni memorabili se non dopo tanti anni, quando pur sforzandoti non sei più in grado di ricordare che giorno fosse. Però era novembre. Ricordo il freddo romano e la giornata grigia, uno sfondo che faceva risaltare più del normale l'orrendo verde della porta di via San Francesco di Sales 1B, il centro femminista separatista. Da non confondere con via San Francesco di Sales 1A, praticamente la stessa porta ma a una distanza incolmabile, quella che purtroppo ancora esiste fra le lesbiche e le femministe per bene, che diciamolo una volta per tutte, di queste compagne di tante battaglie, le loro, si vergognano. Dunque era il novembre di 18 anni fa, quando la mia vita cambiò attraverso una porta di un verde improbabile. Allora non lo sapevo, ma nel salone nascosto da quella porta stavo per incontrare le amiche sorelle della mia vita e la donna che in seguito ho amato per 10 anni, ma soprattutto quell'utopia, a volte amara e a volte insostituibile, a volte entrambe le cose, che per me si chiama politica lesbica. Avevo scelto di essere lesbica da pochi anni e devo dire di essere stata fortunata. È andata più o meno così. Ah, ma allora questo desiderio che sento da sempre dentro di me esiste davvero, non devo reprimerlo, cancellarlo o nasconderlo, è sufficiente viverlo. Che idiota sono stata, mi sono detta, e in un attimo ho visto scorrere davanti ai miei occhi centinaia di scene accadute nei miei 23 anni precedenti. È stato solo in quel momento che quelle centinaia di episodi, di pensieri, di malesseri hanno avuto un filo unico e un significato inequivocabile. Sono lesbica ed è davvero fantastico. Vi assicuro, è proprio quello che ho pensato insieme ad un qualcosa di meno elegante ma ugualmente reale. Fanculo tutto, ora si vive e voglio farlo a modo mio e voglio che nessuna più viva nell'ignoranza e nella paura come ho fatto io fino ad oggi. E voglio anche che questa scelta diventi una scelta di gioia per tutte quelle che vorranno farla. E voglio anche che tutti e tutte ne abbiano rispetto. E voglio. Questo è stato il lesbismo per me, fin dal primo istante. Senza saperlo, ero già in cammino verso la porta dal colore verde improbabile, la politica lesbica. Io non potevo saperlo, ma in quel giorno di novembre, annunciato solo da un minuscolo trafiletto del manifesto, dietro quella porta c'era un evento eccezionale, una riunione nazionale che rappresentava un mix tra un bilancio tardivo della prima settimana lesbica e la timida proposta di tuffarsi nell'organizzazione della seconda. Il dibattito era acceso come sempre e c'erano tutte le donne più rappresentative del movimento lesbico italiano, che allora equivaleva al movimento lesbico separatista italiano, tra cui alcune donne che ora sono nel CLR, le mie amiche sorelle, e per nulla confusa tra le altre bolognesi, Marina, la donna che avrei amato fino a quando il cancro, faticando un bel po' per vincere contro quella forza della natura, non l'ha sottratta a tutte noi e alla politica lesbica. Da quel fatidico giorno di novembre sono successe tante cose, la maggior parte belle, altre che sarebbe meglio dimenticare, tutte però caratterizzate da una passione alla quale ho dedicato gli anni migliori della mia vita, la politica lesbica appunto. Ed è così che anno dopo anno si sono succedute la fondazione del CLR, il convegno lesbico a Roma, la prima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, 10 edizioni del Festival Internazionale del Cinema Lesbico, Immaginaria. E in una seconda stagione quasi vicina alla senilità, si può essere vecchie anche a 44 anni, le 5 giornate lesbiche di Roma, il fuorisalone di Milano e poi chissà cos'altro, ammesso che per la politica lesbica di oggi una come me, separatista e fiera di esserlo, possa ancora essere utile alle altre. Non è una novità che un giorno solo possano succedere gli avvenimenti più importanti di tutta una vita. A me è successo, ed era novembre, data sconosciuta. Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still words don't. E Eccoci, siamo noi, siamo qui, non vi spaventate, è un inizio molto particolare perché è la giornata che è tutta particolare. Intanto mi preme di salutare Radio Di Massa perché ci stanno ascoltando via web e Transizione di Fase, che è un'altra radio web. Infatti mi sento, anzi ci sentiamo particolarmente strette, siamo un sacco di entità all'interno di questa radio e molti ascoltatori oltre a quei tantissimi che solitamente ci ascoltano, quindi un saluto, un caro saluto a chi ci ascolta. E noi siamo il CLR, come avete sentito dalla sigla, e questa sarà una trasmissione particolare. Abbiamo voluto cominciare con il contributo che la nostra compagna Deborah, trasferita ai noi a Milano, ci ha mandato, e poi andremo un po' a ruota libera e, contrariamente a quanto noi facciamo solitamente, che prepariamo tutto, non abbiamo preparato niente, non abbiamo assolutamente idea di che cosa verrà fuori oggi. Comunque noi siamo qui. Continuiamo per il momento a sentire un po' di Tracy Chapman. Siamo qui. Io sono Caterina, con me c'è Lucilla, Rosina, abbiamo un ospite graditissima che è Elena, e c'è pure Emanuela. Poi abbiamo la promessa di alcune telefonate da fare, insomma, vediamo un attimo, insomma. Devi accenderlo forse? Ora si sente. Allora sì, abbiamo poi delle compagne che sentiremo al telefono. Alcune devono venire, ma l'influenza le ha colpite, non affondate ma colpite. E sì, continuiamo a sentire un po' Tracy Chapman, poi partiremo con la nostra ospite gradita, compagna, amica, lesbica come noi, ma soprattutto con la quale abbiamo relazione. Noi continuiamo sempre a dire che le relazioni sono fondamentali. Ma quindi lo vogliamo dire che questa trasmissione, questa serata, sarà una serata di testimonianze. Diciamo qual è il tema da svolgere. Allora, noi ci siamo rese conto che è comunque sempre una calamità. E qual è la calamità? È quella di essere delle lesbiche arrabbiate. Sì, arrabbiate in senso positivo, non arrabbiate. Certo. Arrabbiate perché noi abbiamo cose da proporre. E tanto per incominciare, vogliamo parlare delle uscite fuori. Come siamo uscite fuori? Sentimentalmente, in maniera amorosa, ma soprattutto in maniera politica. Perché per noi essere lesbiche è innanzitutto un atto politico. E quindi sentiamo. Vai un con po' Tracy. Baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time, you'd be mine. At the right time, you'd be mine. You'd be mine. You'd be mine. Allora, intanto cominciamo. Avete capito chi è la nostra ospite graditissima? Elena. Ciao. Elena è di casa, sia con noi che qua in radio, e quindi naturalmente se volete telefonare, se volete chiamare, se volete fare una testimonianza in diretta, noi siamo qua e i microfoni sono aperti per tutte voi, e anche e quindi diventa uno scambio, no? Allora, ognuna di noi ha avuto esperienza sentimentale e non solo, ma ognuna di noi si è trovata per la prima volta ad affrontare la question: sono lesbica, oibò, oppure alleluia. Insomma, Elena, per te com'è andata? Alleluia, alleluia. Assolutamente. E io sono una lesbica relativamente tardiva, in realtà, nel senso che avevo 20 anni, 21, insomma, perché il primo coming out è quello con se stesse, insomma, non, certo. prima che all'esterno, facevo già l'università, questo è quanto. E prima non mi sto a raccontare, insomma, infanzia e adolescenza, che volendo, insomma, una ce lo poteva leggere il lesbismo in controluce, però io non ce l'avevo letto, quindi direi che questa è la cosa fondamentale. E, che dire, io innanzitutto, cioè a me è successo che mi sono innamorata di una donna, questo mi è successo sostanzialmente, e proprio ho perso la testa, così improvvisamente. Io mi ero convinta per tutta l'adolescenza che io ero una a cui le relazioni sentimentali, il sesso, non ti interessava, poco, cioè non è che ne stavo fuori, però nemmeno mi interessa, cioè altre relazioni mi interessavano di più. Cioè mi interessavano di più le relazioni d'amicizia con le donne sostanzialmente, però dice ma non l'avevi capito? No, non l'avevo capito, e così. E poi niente, mi sono innamorata, ho vissuto questa storia senza freni, cioè nel senso non mi sono fatta grandi problemi quando l'ho vissuta e basta, pienamente, con tutta la passione e l'entusiasmo dei 20 anni. E quando questa storia è finita mi sono chiesta... e ora? Chi e ora sono? Che faccio? Dove vado? Certo. E mi sono risposta che per me, all'epoca io mi sono risposta così, che questa, diciamo, esperienza con una donna non era un capitolo chiuso, cioè non si chiudeva lì. E quindi ho voluto sperimentare e quindi inizialmente... Come dire, per un periodo anche abbastanza breve in realtà, cioè sono stata una lesbica un po' da locali, cioè nel senso perché tantissime lesbiche, cioè, riescono a vivere il proprio lesbismo in serate, discoteche. Certo, andando fuori, conoscendo, eccetera. E quindi c'è stata quella fase che non è stata tanto lunga ma molto intensa, soprattutto per le ore notturne, insomma. Certo, poi, insomma, il fine settimana stravolgente, però c'avevo pure 20 anni, insomma. E c'era una resistenza. C'era una certa resistenza all'epoca. E poi in realtà sono arrivata anche molto presto, cioè non presto appunto perché avevo più di 20 anni, però velocemente a un contesto politico, fra l'altro insomma attraverso una compagna che non c'è più e che è morta di cancro, e insomma lo dico per ricordarla. Lo dico per ricordarla perché credo che sia anche un tema importante politico, certo, questo della malattia. Che niente, io l'ho conosciuta all'università, questa compagna che si chiamava Alessia, e l'ho conosciuta all'università e la guardavo da lontano perché mi ricordo che lei portava una maglietta nera con un triangolo rosa con scritto in inglese silenzio uguale morte. E quindi insomma io avevo notato questa maglietta e poi insomma un giorno ci siamo rivolte la parola e lei mi ha portato subito, cioè molto velocemente sono andata a finire in quello che in un circolo che quello che oggi è Azione Gay e Lesbica, che era un circolo misto, però dove io ci sono arrivata attraverso il gruppo delle lesbiche che si riuniva tutti i giovedì, e quindi ho cominciato a frequentare quel contesto. E quindi il giovedì deve essere un giorno proprio lesbico, perché il CLR si riunisce il giovedì. Noi ci siamo riunite per anni, il giovedì eravamo pure tante, tutte molto, all'epoca eravamo tutte universitarie o comunque certo, più o meno su 20 anni, è un gruppo che ha anche retto nel tempo, abbiamo fatto tante cose insieme e insieme a tante altre come gruppo abbiamo costruito le settimane lesbiche, certo, quella del 96 e quella del 98, e abbiamo incrociato da subito, anzi nel mio gruppo diciamo che la relazione con lesbismo separatista c'è stato da sempre, perché la mandorla è venuto in era automatico, lì e facevamo cose insieme, parlavamo, ci incontravamo. Puoi ripetere, scusa, l'età media del gruppo? Di allora? Del vostro gruppo? All'epoca andavamo dai 18 ai 25 anni. Soltanto io sono capitata qui al CLR che mediamente erano tutti però, oltre i 40. No, va bene, ma... però pure cioè, io avevo quell'età babbione all'epoca. Ma io avevo l'età tua all'epoca, visto che siamo coetanei. Ha avuto la sfortuna di incontrare noi. Adesso sono babbione anche io, ma all'epoca ero una giovane braccioletta. Che quando lei è arrivata, noi la chiamavamo Braccioletta, perché era la mascotte praticamente, era proprio una creatura. Sì, però nel giro di un anno l'abbiamo cominciata già a chiamare la Braccioletta sulla Via del Tramonto, perché non è che si è adeguata all'età che andava per la maggiore, era già vecchia dentro, e quindi lei è stata benissimo con noi, e adesso addirittura ci anticipa. Quindi bene, quindi questo per te, cioè quindi da una storia di passione hai avuto la necessità di spostarti sul piano politico immediatamente. Sì, sì, anche perché fra l'altro, insomma, io da sempre avevo, come dire, il desiderio di esserci politicamente, pubblicamente, io ce l'avevo, però non riuscivo mai a collocarmi e a sentirmi nelle cose davvero, forse perché ci stavo solo con un pezzo di me stessa. Certo. E invece da entrata poi, insomma, cominciata a far politica come lesbica, questa sensazione di essere un po' parzialmente nelle cose, di non sentirmici fino in fondo è finita. Sia quando ho fatto esperienze, insomma, di politica lesbica, che anche quando ne ho fatte altre, perché comunque mi sono portata dietro la mia identità politica, insomma, il mio posizionamento. Certo, certo. La collocazione. Bene, e quindi, insomma, è interessante, no? Perché queste sono le vite, no? No, infatti la cosa che mi sconvolge, che, cioè, sconvolge benevolmente, chiaramente, no? È che io trovo una similitudine incredibile con il tuo vissuto, nonostante poi noi abbiamo età diverse, luoghi di provenienza diversi, però la considerazione che hai fatto tu all'inizio, no? Che il primo coming out lo fai a te stessa, ed è una cosa che io ho sentito, ma mi ha colto proprio come uno strale, capito? Perché in effetti tu devi convincere te stessa che sei quello lì, cioè che sei, sì, lesbica, lo devi dire a te. E fra l'altro io non ho neanche, cioè io non l'ho vissuta, come dire, con grande, cioè per me è stato... Dice, ah, ecco, sono... Sì, no, nel senso, è stata una cosa rilevante, non voglio dire di no. Però non l'ho vissuto con un senso di tragedia, come a volte succede, nel senso che io stavo proprio bene quando ho cominciato a vivere questa cosa di me, e quindi questo contava per me. Sì, ma sai momento. Qual era, almeno per me, e mi riallaccio alla similitudine che ho con te rispetto a questo aspetto, è che io nel riconoscermi lesbica ho trovato tutta una serie di risposte ad interrogativi che prima davo, delle cose che sentivo, che provavo, che assolutamente non capivo. Cioè io sapevo di non essere quello che solitamente tutti si aspettavano che io fossi, ma non riuscivo a capire perché, e soprattutto non riuscivo a capire che cavolo ero, cioè se non sono questo, che sono? Poi quando mi sono ritrovata invece a perdere la testa, ma proprio perderla di brutto, per una donna, allora ho dato delle risposte, mi sono, mi sono chiarita una serie di cose che non capivo, ma proprio... Tu, per esempio, prima hai detto quella frase che a me ha fatto molto sorridere, perché anche lì mi ci sono riconosciuta, no? Quando tu dici, ma non l'avevi capito, tutti i segnali che comunque vivevi, possibile non l'avevi capito? No. No, non lo capisci, anche perché, voglio dire, noi viviamo in una cultura che ti colloca per default come eterosessuale, e tu cresci convinta di esserlo, per cui non è così semplice riuscire a vedere altro, capito? Infatti la proiezione che avevo su di me da piccola o da adolescente nell'età adulta era, cioè nel senso, io sognavo e desideravo una vita autodeterminata, autonoma, cioè per esempio, che ne so, il matrimonio non mi è mai passato, cioè mi è sempre sembrato una cosa molto lontana da me. Avevo solo la paura di non riuscirci, in qualche modo. Però poi è venuto da sé, insomma, e non voglio dire, cioè io per esempio rispetto alla mia famiglia d'origine è stato un percorso piuttosto complesso il mio. Però per il resto io non mi sono neanche mai posta granché il problema, lo dico o non lo dico, perché poi le cose sono venute un po' da sé, soprattutto nel mondo, insomma, cioè io l'ho detto prima nel mondo che in casa mia sostanzialmente, che poi questo è successo anche, cioè, a me. E poi la mia famiglia ha dovuto ricevere il messaggio, perché lo sapeva altra gente, insomma, no. Però non l'ho mai problematizzata tanto con me stessa questo aspetto. A me è successo invece di non tanto problematizzare, allora... Non so cosa significhi in un percorso problematizzarlo, no? Problematizzare. Cioè non mi chiedevo, lo faccio, non lo faccio, lo dico, non lo dico. Sì, no, questo sì, questo lo capisco, nel senso che a me è successo avere sempre l'amica del cuore. E l'amica del cuore era l'amica del cuore. Addirittura a me è successo a 14 anni, io, è un episodio che con le compagne racconto, insomma, alle volte quando ci raccontiamo, perché poi è divertente, no? Alle volte ripercorrere, no? il proprio essersi riconosciuta, il proprio aver capito. Ma io ricordo il primo giorno di liceo, sta ragazzina come me, 14enne, in mezzo a una folla. Io arrivo davanti al liceo, ovviamente a 14 anni non è che ti accompagna babbo e mamma, ti accompagna nessuno, cioè vai. Io all'epoca, ora l'accompagna. Ah vabbè, all'epoca. All'epoca. Quindi io arrivo e manco fossi stata davanti, anzi su un palco del teatro, vedo Sandra, ora intanto lei è stata in un'altra parte, quindi poi Sandra è un nome abbastanza comune, tutto sommato, vai tranquilla. Vedo Sandra, che poi sarà la mia compagna di banco per 5 anni. E innamoratissima io di lei, credo anche lei di me, peraltro, perché poi vabbè, la storia è andata così, però non abbiamo mai fatto niente, nel senso che io non avevo modo di capire. E io ricordo lei come se fosse stata illuminata dall'occhio di bue teatrale, il resto sparisce, lei con capelli lunghi, ricci, viso con le lentiggini e un vestito color vinaccia, il diario in mano. Oh, io ora ho 56 anni, avevo 14 anni, cavoli, me la ricordo bene, al punto che l'anno dopo mi sono fidanzata col fratello e sono stata ben 16 anni col fratello. Però le vie sono contorte così. Lo so, al punto che, cioè, capito? E quindi è stato un amore non vissuto per un sacco di tempo, fino a che poi alla fine, cioè, ne ho fatta più, non potevo continuare a stare con questo e quindi vabbè, è finita. Però mi sono innamorata di lui dai racconti di lei. Io lui non lo conoscevo, ero innamorata del fratello di Sandra, quindi voglio dire, cioè, allora non lo so cosa significa rendere la cosa problematica. Io per gli strumenti che avevo e per il mio vissuto non potevo permettermi di essere lesbica, perché nella mia storia ero già figlia di puttana. Quindi essendo una figlia di puttana, cioè nella scala gerarchica, come si dice, anzi nella scala sociale, gli ultimi gradini se li giocano la lesbica e la puttana. Io già stavo in fondo e non potevo scendere dell'altro, o non potevo, insomma, stare in un ex equo non meglio identificato, non saprei dire. Poi dopodiché mi è toccata la botta, e a me è toccata a 27 anni. Mi sono innamorata perdutamente e a quel punto, perduta la brocca, ha detto e so così, e allora vaffanculo. No, come ha detto Deborah. Io ho un altro ricordo che è un po' imbarazzante dirlo, però penso che faccia proprio parte della storia mia, no? Nel senso che io sempre quei segnali che non volevo assolutamente capire, no? Dice, sei decoccio? Sì, sono decoccio. Però io, per esempio, di notte io facevo dei sogni di un erotico, che poi mi svegliavo la mattina e dicevo, ma però strano, ma come mai? Cioè io poi nella mia voglia di normalità, no, pensavo che tutto sommato avrei dovuto sognare un bel maschione che stava a letto con me, e invece no, era una donna, capito? Allora poi mi ricordo che quando, dopo diverse volte che mi svegliavo con notte di passione abbracciata ad una donna, l'unica soluzione che io avevo trovato per giustificare tutto ciò è pensare che ero io un uomo. Quindi io mi pensavo, cioè mi sognavo come uomo, essendo sempre io, sempre così uguale, però era l'unico modo che c'avevo per consentirmi, voglio dire, adesso sembra una banalità, però se Lucilla c'ha 56 anni, io ce n'ho 54 e stiamo a parlare quando ce n'avevo 20, sono passati 34 anni, cioè voglio dire, non era poi così semplice, e io invidio molto il tuo è venuto da sé. Cioè, da me è venuto da me una cippa, nel senso che proprio no. Nel senso, ripeto, evidentemente la difficoltà ce l'avevo, perché sennò sarebbe venuto fuori, certo, molto prima, parecchi anni prima, insomma, pure io ho avuto la compagna di banco di cui sono stata innamoratissima tutto il liceo, eccetera, eccetera, eccetera, ma mi sono mai posta, come dire, neanche l'interrogativo. Però io non vivevo a Roma all'epoca, e vivevo in provincia, e anch'io, e vivevo in provincia, e soprattutto, diciamo, gli anni del liceo, che cominciato mi pare nell'83 il liceo, io vivevo quegli anni in una città di provincia con un senso proprio di soffocamento, cioè io mi sentivo proprio stretta, cioè in un posto dove c'è lo struscio sul corso, il vestito bello, dove, cioè proprio mi sentivo E l'idea, cioè, siccome proiettarmi lì mi era impensabile, ma non perché sono una cittadina del mondo, no, perché no, la vita che volevo evidentemente era un'altra. E quindi questa cosa del lesbismo è stata liberatoria. Cioè, innanzitutto era un'altra città, a quel punto era Firenze, era il posto dell'università, eccetera. E, cioè, come dire, a un certo punto mi sono detta, no, vabbè, la mia vita non è quella, ce l'ho fatta. Cioè, certo. Non... certo. Ma allora, io prima ancora dirò un'altra cosa. Prima, io intanto però ero femminista e quindi stavo sempre con le donne. Cioè... Allora erano tre le cose. Cioè ero anche cornuta, che vuol dire? No, nella tua storia, la prima era che eri figlia di puttana. Poi lesbica e pure femminista. Anche separatista. Vabbè, allora. Allora ditelo. Ma pure comunista, diciamo le tutte. Pure comunista. Diciamola tutta, cioè, allora dillo, sei tu che c'hai una vocazione. Non sono ebrei di colore, ma per il resto... Però ci si può lavorare, ci si può ci lavorare. Ci si può lavorare. Tanto con l'abbronzatura, non lo so, lo diceva anche Berlusconi. Vabbè, detto questo... sono andata a un certo punto a un convegno a Torino con il mio gruppo c'era un gruppo, sia il gruppo femminista Grosseto che poi avevamo un intergruppi che poi creò Spazio Donna in Toscana che era un gruppo di femministi, scusate, non lesbici. E qui insieme andiamo, perché avevamo cominciato ad avere un progetto che era quello di comprare uno spazio in Toscana, andiamo a questo convegno a Torino, produrre e riprodurre. E quindi partiamo. Partiamo, eravamo un gruppo notevole, insomma, nel senso che c'eravamo da Grosseto, da Siena, da Pistoia, da Pontedera, da Firenze, insomma, c'era una serie di persone. Arriviamo su e io rimango folgorata, ma non mi dico niente, ma assolutamente niente, da una tedesca, una tipa che ancora me la ricordo, anche quella, c'ho gli occhi di bue che mi porto dietro, anche quella, cioè me la ricordo benissimo, con questi capelli biondi tagliati corti. Io quello che facevo è, ovunque la incontravo, mi bloccavo, mi appoggiavo alla parete e la lumavo da lontano. E faceva Humphrey Bogart. E la lumavo da lontano. Ma me fossi chiesta una cosa, niente. Ho dovuto aspettare ancora un anno e sono... caduta con un'altra tedesca, ragazze, la grande Germania. In un campo femminista, questa l'ho conosciuta in un campo femminista, e lì è successo l'irreparabile, è successa la calamità di cui invece mi sono resa perfettamente conto. Finalmente dopo un po' ti sei resa conto. A questo punto, visto che avete parlato abbondantemente tutte quante, io direi mandiamo un po' di musica, sì, e cerchiamo di metterci in contatto con le compagne che invece... per guadagnare un pochettino di tempo, yes, se siete d'accordo, io manderei Melissa Etheridge con il brano Kiss Me e subito dopo lascio partire il contributo che Stefania ci ha mandato, tanto sono corto e come lei, perché non è potuta venire qui per problemi di lavoro questa sera, però ci teneva a farci a darci il suo contributo. Ok, allora vado con e poi chiameremo qualcuno e poi nel frattempo, vai, se riesco a far funzionare il tutto chiamiamo. Scusa, intanto se vengono in mente delle cose comunque a noi Elena compresa, se hai voglia ancora di intervenire su aspetti che ti vengono in mente, questa è veramente un'altra cosa che ci giusta. Siamo dimenticate è che si possono mandare dei messaggi, il numero è 339 85 36 270, questo è il nostro telefono cellulare, quindi se avete voglia di mandarci un contributo, quello che volete, solo cose belle, grazie. Che è tornato a funzionare, esatto. Farei notare, esatto, da qui esatto. Per poi. Molto lungo tempo ancora. E durerà. Durerà, allora. durerà. Ok. Baby, what you doing tonight? I'll go anywhere that you wanna go. I'll jump into my car, go down to that bar, pretend I'm someone that you don't know. I'll ask you if you would like to dance. Slip myself up close to your thighs. You can buy me a drink. We'll make everyone think that love is so damn perfect tonight. Buonasera a tutte, mi dispiace non poter stare in diretta con voi e registrare questo piccolo contributo. Comunque vi volevo raccontare, ecco, un coming out un po' scherzoso, e cioè quello che ho fatto nel mio luogo di lavoro. Ero un po' stancata di sentire tutti i colleghi che raccontavano della famiglia, dei figli, delle fidanzate, e io non dire mai niente. E a un certo punto, stanca anche degli insulti, diciamo, più o meno velati ai gay, ho detto, ma perché ce l'avete coi gay? Mi hanno risposto in un certo modo, io ho detto, beh, io sono lesbica. E loro sono rimasti un tantino colpiti, e poi subito dopo 5 minuti sono venuti in fila tutti da me con lo sguardo proprio a terra, chiedendo scusa. E questa cosa delle scuse sono andata avanti almeno 3-4 giorni, io ero arrivata a un punto che non sopportavo più la cosa. Era quasi peggio degli insulti. Era peggio degli insulti, devo dire. Alla fine però un ragazzo si è giustificato, sempre guardando per terra, dicendo che non è che ce l'aveva con le donne lesbiche, ce l'aveva con gli uomini gay, perché gli uomini gay ci provano con tutti, anche se capiscono che il ragazzo è etero. E quindi i gay sono stronzi, insomma. E io ho detto, questa cosa non è vera, non è che i gay sono stronzi, è che gli uomini molto spesso si sentono in diritto di provarci, anche tutti se sono tutti gli uomini, molti uomini, non proprio tutti, dai. E si sentono in diritto di provarci con una persona anche se sanno che quella persona gli dirà di no. Tutti mi hanno detto no, questo non è vero. Allora io l'ho guardato in faccia e gli ho detto andate dalle vostre sorelle, andate dalle vostre fidanzate e chiedete se non gli è mai capitato che per strada qualcuno le importunasse, magari in macchina mentre sono in fila sul raccordo. Tutti hanno detto no, è impossibile, questa cosa non capita. E il giorno dopo puntualmente sono tornati da me dicendo è vero, mia sorella mi ha detto che capita in continuazione. Ecco, hanno finalmente preso atto. Hanno preso atto e questo è stato il coming out che ho avuto al lavoro. Vabbè. La domanda che avanza è che ci facevi sul raccordo? La testimonianza di Stefania è finita, adesso vediamo se siamo riuscite a far funzionare tutto quanto. Dovrebbe esserci in collegamento una compagna. Ci sei? Pronto? Ci sono, salve. Vai. Grande. Vai. Allora, a noi l'onore. Abbiamo aperto con Deborah, che ha mandato uno scritto, e adesso ci sentiamo con un'altra compagna. Vuoi dire chi sei? Come no, volentieri, sono Monica. Monica, grande Monica, che è una nostra compagna, e alla quale siamo legate da un profondissimo affetto e da un percorso politico che ancora dà i suoi frutti. Vero Monica? Beh, speriamo proprio di sì e speriamo ancora lungamente, perché insomma anche stato, non, per voi non so, ma per me sicuramente un'occasione straordinaria lavorare con voi, per me molto importante nella mia vita, quindi spero che continui ancora a lungo. Ok, grazie, okay. Grazie tante Monica. Noi stasera stiamo andando d'imbracciatura e stiamo raccontando com'è stato per noi fare coming out o coming out, come viene detto, ma non semplicemente all'esterno. Per esempio prima Elena, che ha parlato con noi, ha detto che il primo coming out l'ha dovuto fare con se stessa e poi, è stato poi quello nel mondo, con la famiglia, nel lavoro, eccetera eccetera, insomma. Per te com'è stato scoprirti? Dunque, allora diciamo che comincerei in questa maniera, nel senso che il primo coming out con me stessa, per riallacciarmi a quello che diceva Elena, nei fatti è avvenuto molto presto, nel senso che da subito, diciamo così, da quando ho cominciato ad andare a scuola all'elementare intorno agli 8-9 anni, insomma, mi sono accorta che come dire, il mio piacere, il mio desiderio, il mio sguardo preferiva le amiche piuttosto che gli amici. Okay. E questa cosa è stata anche diciamo molto favorita dal fatto di frequentare ambienti separatisti già in nuce, se vogliamo dire così, perché ho iniziato con lo scautismo della Gesci era diviso, per cui insomma quindi avevo modalità di esplorare e i miei sentimenti e i sentimenti delle altre nella pratica. Quindi vivevi in un mondo femminile? Dimmi. Vivevi in un mondo femminile? Vivevo in un mondo femminile, e almeno nel piano diciamo delle amicizie, della formazione, certo, eccetera, e questo devo dire è stato abbastanza importante, anche se forse inconsapevolmente è stato anche una mia scelta, nel senso che ho scelto, potendo scegliere, di stare in un ambiente femminile, ho scelto di poter fare certe scuole piuttosto che altre, di fare lo scautismo, eccetera. Quindi questo è stato molto importante. Da questo, diciamo, a praticare il mio lesbismo, ce n'è passato di tempo, ce n'è passato moltissimo, tanto direi, e da questo punto di vista diciamo che in qualche modo l'apertura al vivere questa esperienza fino in fondo, questa straordinaria conoscenza di sé e delle altre, è stata parallela anche al mio scelta incontro con la pratica politica in qualche modo. E questo, sta venendo fuori da tutte le testimonianze. Ecco, quindi evidentemente quindi un sapere condiviso anche questo, no? Esatto. Rispetto al fatto che praticare il proprio affettività da questo punto di vista nasce anche dalla prima, secondo me, per me più importante scelta, che è quello di fare delle donne il mio punto di riferimento, di sguardo sul mondo. e quindi fare di questo anche un modo politico di stare nel mondo, naturalmente. Esatto, questo è straordinario, perché quello che tu stai dicendo, non ci siamo sentite prima, non c'è trucco, non c'è inganno, evidentemente no. È un percorso condiviso, no? È una necessità. Certo. Giusto? Sì, certo, è importante, nel senso che appunto, almeno per me, e quindi da quello che mi dici tu, anche per altre che evidentemente sono intervenute, e forse anche diciamo per quelle che riflettono su questo, è importantissimo il fatto che la propria conoscenza e il proprio stare nel mondo attraverso lo sguardo e il sapere delle altre ha anche permesso di vedere meglio dentro di sé e anche di capire che l'affettività, e questo credo sia una cosa importantissima, uno straordinario strumento per essere nel mondo, quindi per praticare, per fare politica anche, contrariamente a quanto ci è stato detto nel corso della nostra formazione più o meno ufficiale fatta dalla società. Certo. È stato importante per capire che si può rimettere in discussione il modo di guardare al mondo, di fare conoscenza, di sapere, e poi quindi anche il proprio modo di essere più complete in questo mondo in qualche modo. Bene Monica, io e noi ti ringraziamo, perché come al solito... Come al solito... Quando apri la bocca parli? No, vabbè, questa è Rosina che lo dice, ma noi quello che a noi fa piacere è che ci sentiamo in linea, no? E quindi c'è questa condivisione profonda dei vissuti, ci porta a riconoscere ai nostri percorsi quella veridicità e quella possibilità di avere consapevolezza di sé e quindi dello stare nel mondo, no? Assolutamente. Ed è la parte geniale dell'essere lesbica. Sei stata posseduta dallo spirito di Monica. Senti, posso aggiungere una cosa a due secondi? Certo, puoi dire tutto quello che vuoi, Monica. No, volevo aggiungere solo una cosa che per me è proprio importante, e quindi spero insomma che possa servire anche per discussione. Diciamo che questo percorso che mi ha permesso di scegliere le donne come mio punto di riferimento nel mondo, che è passato attraverso l'incontro con il vostro gruppo e che quindi è potuta diventare pratica politica e pratica politica dell'affettività, mi ha anche permesso di, per esempio nel lavoro che faccio, mostrare, ma diciamo senza esibizionismo, voglio dire soltanto semplicemente essere quella che sono. Quindi diciamo il coming out, per concludere questo discorso, nel mondo del lavoro è continuo, nel senso che io sono così, quindi in qualche misura non lo dichiaro, ma le persone che lavorano con me, che insomma fanno formazione con me, che mi incontrano sul luogo del lavoro, mi vedono come sono. Così sono e così in qualche misura mi relaziono anche a loro senza non dichiarare, ma neanche negare quello che sono. È l'interezza, è l'essere intere, no? La totalità. Esatto. Certo. Monica, voglio dire, se mi permetti, solo una cosa: quello che tu chiami il vostro gruppo, lo sai che è il nostro gruppo, perché tu ne fai parte a tutti gli effetti. Come tu ben sai. Ti abbracciamo con un grandissimo affetto e ci vediamo molto presto, e adesso proseguiamo con questa trasmissione nella speranza che il tuo spirito continui ad aleggiare fra di noi. Aleggiare fra noi, che ci illumini. Grazie Monica. Ciao, grazie. Ciao Monica. Ciao. Femministe e lesbiche di tutto il mondo, unite ai microfoni. 24 ore non stop, MFLA su Radio Onda Rossa. Music is my great friend. get the one I gotta buy is music. From all the jobs, they wanna choose his music. From all the drinks, I get drunk of music. From all the bitches, the one I wanna be is music. Music in my beach house, music is my hometown. Music is my king size bed, music's where I meet my friends. Music is my hot, hot bed, music is my hot, hot sex. Music is my back rub, my music is where I'd like you to touch. Allora, messaggini languono questa sera, vi ripeto il numero 339-85-36-270. Passo la parola a Manuela, vai. Buonasera. Il camminato... devi aprire il microfono, sennò non si sente niente. Ok, vai. Eccoci. Perfetto. Buonasera. Il coming out è un discorso a me molto caro da molti, molti anni, tanto che ci ho organizzato anche vari incontri. Per partire da me, andando in sintesi... estrema. estrema. Non me ne sono accorta subito, avevo praticamente scambiato quello che oggi chiamo amore con amicizia e quello che si chiama comunemente rapporto a due con... insomma, avete capito. E... se non che poi in tenera età, 16 anni, anche io innamorata della compagna di banco, bla bla, però a me è successo, cioè, si è concretizzato. E quindi sicché ero tutta contenta, io tra me e me non ho mai avuto problemi dentro. E ho notato che i problemi erano fuori. Ora uno può anche dire che me ne frega, a me insomma ce l'hanno gli altri problemi, insomma mica tanto, A perché non è carino, B perché quando poi la donna di cui sei innamorata ti fa i problemi e preferisce una vita tra virgolette normale al sentimento vero, beh insomma qualche domanda te la fai. E a me sta cosa non mi è mai andata giù, perché io posso capire che uno non è innamorato, tutto quello che vi pare, ma per condizionamenti sociali non mi va giù, non mi va giù, non mi va giù. Sicché sono approdata qualche anno dopo al circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, dove iniziai a intraprendere qualche relazione di amicizia e lì finalmente ci ho avuto l'illuminazione che non ero l'unica al mondo marziana. Da lì a più o meno breve giro sono passata ad Arci Lesbica, dove ho militato per molti anni, perché la cosa che mi spingeva interiormente proprio era non far passare l'inferno che ho passato io alle altre, quindi non farle sentire sole, questo... A me questo senso di solitudine... Che aveva segnato i tuoi primi anni, no? Sì, i miei primi anni, che ancora oggi mi danno diamine. Come ho fatto a uscirne così indenne? Ho avuto veramente una grande forza. E sì che ho militato tanti anni là e lì mi sono accorta che la mia affettività vissuta a 360 gradi comportava naturalmente il fare politica all'interno di un movimento. Quindi poi ora faccio parte da qualche anno del gruppo CLR e è come, non so, una scaletta, perché questo è proprio il gruppo che, anche se ho un po' di difficoltà con i termini così, però sento proprio che mi appartiene, femminista, separatista. E lesbica. Vabbè, sì, sì, il gruppo sì, era sottinteso. Quindi anche per te praticamente il percorso è stato analogo, cioè dalla sì. scoperta, dal tuo riconoscerti. Sì. E fare coming out interno tra te e te. Tra me e me, che però è stato veramente forse quello più facile. Sì, più facile, perché io ero felice, cioè certo. io sento di amare le donne, e che male c'è nell'amore? Certo. In estrema Certo, certo. E quindi da questo poi però hai sentito la necessità di... Sì, perché... della militanza. Sì, ancora oggi, e mi sconvolge sempre di più, ci sono tante donne lesbiche che hanno difficoltà a vivere i propri sentimenti, e questa io la trovo una cosa davvero inumana, non poter vivere serenamente la propria affettività al di là di ogni cosa. Detto ciò, io più in sintesi di così. No, sei stata grande, Manu. Sei stata grande. Della tua vita. Adesso mandiamo una canzone. Una canzone rapidamente, intanto che compagna. Chiamiamo un'altra compagna. Che sfumeremo pure un po'. We got, baby. They may not see the love in you, but love I do. And I'll stay right here. Sweet, sweet baby. Life is crazy, but there's one thing I am sure of, that I'm your lady. Always, baby. Love you now and ever. Sugar wishes don't change what is real or how it feels in the bad times. For whatever he is mine all the time, and we'll get back. Allora, noi a questo punto dovremmo avere in linea un'altra compagna. Ci sei? Ci senti? Pronto? Sì, pronto, ciao. Vai. Ciao. Dai meandri dell'influenza, ecco. Sì, sì. Vuoi dire chi sei? Ti sto sentendo. Pronto? Sì. Ho soltanto alzato il volume per permettere alle compagne che sono qui di ascoltarti. Dicci tutto. Allora, volete sapere del mio coming out? Certo. Dici chi sei, bicipite. Bicipite, sono qui per servizio. Allora... come è andata? Niente, io come tutte penso ne ero, cioè, mi è capitato di avere infatuazioni quando ero piccolino, alle superiori, così, però mai in maniera consapevole. Mi ricordo un fatto, mi ricordo che andai da una mia compagna di classe, una mia amica, e le dissi del mio dubbio. E lei mi disse, no, non è possibile, non è possibile. Da lì io rimossi completamente, ero alle superiori, rimossi completamente fino a che non mi si ripropose davanti al periodo di università, quindi avevo così 20 anni, e il solito innamoramento della compagna universitaria. Che, tanto insomma, simpatica, no? Tanto simpatica, tanto bella, che devo dire mi è stata molto vicina, nonostante ovviamente poi non ci sia stato niente tra di noi, però lei mi ricordo... quella sera che mi portò in un belvedere, io studiavo a Perugia, su un belvedere, io e lei in macchina, mi guardò e mi disse, hai qualcosa da dirmi? E io scoppiai in lacrime e ammisi tutto quanto, a lei e a me stessa soprattutto. Quindi devo dire che mi ha aiutato molto. Che sei tenera come un orsacchiotto. Sì. E poi da lì, insomma, tutto stato in discesa alla fine, perché... sono andata quasi subito, sono capitata alla Casa Internazionale delle Donne, quando all'epoca era ancora era occupata. Il Buon Pastore? Sì, Buon Pastore, conobbi tanta gente, insomma, poi cominciai a militare nella CIGA di Perugia, quando sto ancora lì, all'università, e poi, insomma, non ho più smesso. Adesso è grande, bicipite, guarda veramente. Fino ad arrivare a fare la barista del Casbile. Esatto. Diciamo, la mia carriera mi ha portato. Sara, io non vi sento bene adesso. Mi sentite voi? Sì, noi ti sentiamo benissimo. Tu ti senti adesso? Che ho spento la radio, che so che sono riverbera. Ah, ci senti adesso? E niente, volevo augurarvi a tutti un buon 8 marzo. Grazie. Grazie di aver partecipato alla nostra diretta. Mi dispiace di non essere lì con voi, ma la febbre mi trattiene. Oibò. Un bacio anche a Nancy, che credo sia ammalata anche lei. Sì, infatti. Okay. Ok. Un bacio a tutte. Un bacio, ciao. Ciao. Thank you. Abbiamo l'ultima, non in ordine di importanza, ma un'altra testimonianza in diretta. Ci sei? Pronto? Io ci sono. Vai, influenzata anche te comunque. Guarda, lasciamo fatti come bicipite. Silenzio, amore! Amore! Amore a voi, dovevo essere lì. Ma si sente male, ragazze? Sì, ti sento benissimo. Amore, vorremmo sapere da te se hai la possibilità di dirci in due battute, due parole, com'è stato il tuo coming out? Come ti pare a te? Politico, sentimentale, lavorativo, con te stessa, con gli altri? Allora, con altri, brevemente, con gli altri. Brevemente, e con cecchettino tuo. E con cecchettino mio, questo qui, con cecchettino mio. Allora, velocemente, il mio coming out è stato graduale, non assolutamente forzato, non assolutamente disperato e disperante. Io mi sono accorta a un certo punto che non mi andavano bene tante cose, quindi sono partita da tanti no, lo dico sempre. Il mio essere lesbica, la mia scelta lesbica è nata dai tanti no che ho detto. No a essere la bambina di un certo tipo, no a essere la figlia di un certo tipo, no a essere l'alunna di un certo tipo, e quindi da questo è partito poi il mio andare a vedere cos'altro c'era. E come disse Hannibal Lecter nel Silenzio degli Innocenti, si desidera ciò che si vede. Quindi la mia fortuna è stata aver conosciuto delle lesbiche. Io ero adolescente, loro erano un po' più grandi, però la mia fortuna è stata di conoscere delle lesbiche e di entrare in un mondo che capivo era quello che volevo. Sapevo cosa non volevo, ma non avevo fino a quel momento davanti qualcosa che invece mi piaceva, e quella è stata la mia entrata al mondo lesbico e quello che mi sono detta, questo è il mio mondo. Poi, la trasmissione, come te sei scoperta? Non è che come te sei scoperta, qui adesso mi chiedo a 46 anni perché non ti ricopri, perché insomma, la devastazione, poi, questo è un altro discorso, però questo meraviglioso mondo lesbico. Menzina, però, questo non lo possiamo dire mai, perché non ti ricopri, no, da noi non verrà mai fuori, sei nel nostro cuoricino. Vorrei dire, amore, che quando hai detto che non ti andava più bene niente, io ho avuto una visione di me e di te davanti allo specchio, disperate, con i vostri vestiti che non c'entrano più. Comunque, va bene. Nancy, come tu poi hai, discorso, hai sentito, io non ho testimoniato stasera. Perché ho pensato comunque che faremmo una trasmissione poi io e te soltanto su di noi. Per amore mio. Perché tu lo sai che noi siamo arci lesbiche. Nel senso, siamo talmente lesbiche da poterci definire arci. Io e te soltanto. È vero, hai ragione, super. Mio amore, il tempo stringe, le compagne devono andare. Purtroppo ci siamo allargati, sì, un tesoro, po'. Tanto per fare una cosa nuova. All'inizio della trasmissione, però veramente contiamo di parlare di nuovo tutte quante insieme di questa posso cosa. Posso dire magari solo una cosa? Sì, non aspettavo. Sì. Per quanto riguarda poi no la pratica lesbica, io credo di fare una mia pratica lesbica ogni giorno con il mio lavoro, che è comunque un lavoro che non è una missione, non è un lavoro, dice, sai, fare l'insegnante, sei una missionaria, ste cazzate qui. Vabbè, sei una maestra. Sì, infatti. Sei solo una Questo è un lavoro politico, certo. E per me vuol dire tanto fare l'insegnante e fare e determinare alcune cose con le bambine, ma anche con i bambini. Quindi questo sì è anche il mio lavoro politico all'interno del mio lavoro, diciamo, che mi dà da mangiare. Poi ci sta tutto il lavoro politico che faccio con voi, che faccio con Terzo Orgasmo, che ho fatto in precedenza con l'altro mio collettivo, Però insomma, il mio lavoro politico è anche quello di fare insegnamento in un certo modo. Questo volevo dire. Mi trovi dirlo. Assolutamente d'accordo, essendo stata lo so. Allora, Nensina, Nancy, noi ti salutiamo così e speriamo di vederci prestissimo. Sì. E ti volevo soltanto dire che le misce ti salutano. Amore, anche Giacchettino, c'ho anche Gondina qui oggi. Ciao tesoro. Le misce ti salutano. Grazie. Ciao, Nancy, ciao, un bacio a tutte. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no, yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that.